foi latear, hein? E tu foi fugir, hein? Mas solo o buio, tu foi me canerar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Cholo, viate, e sulla onda del mare, le canto di un granello. La la la la la la la la la la la la. Ti voglio tenere, tenere, legata come un raggio di sole, così posso calore. La nebbia tuo cuore e scaldarti puderà e mai più freddo sentirà e tu fuggire e che la notte ti perderai e solo un buio mi chiamerai la legata armarà e un granello di sabbia. La la la la. Viatti, viatti, viatti, cornuto, viatti del mare, granello di sabbia, viatti, cornuti, e nel buio.